nei trattati, nelle trattative di pace all'inizio degli anni 90, e lo salutiamo, grazie di essere qui, gracias por estar aquí. Gli andremo a chiedere un po' di cose sulla situazione odierna in Guatemala, soprattutto rispetto alla lotta contro le dighe alle quali prende parte molto attivamente, fa parte del Frente Petenero contra las Represas, e qui in Italia per un po' di iniziative, alcune sono nei prossimi giorni, ve le indichiamo subito, poi le ridaremo più avanti nella trasmissione. Domani martedì 18 alle ore 19 allo spazio Shoot for Change in via del Mandrione 105 parteciperà al dibattito sul tema dighe e biocarburanti, e verrà esposta anche una mostra e saranno proiettate delle foto di repertorio scattate durante la guerriglia. E venerdì 21 invece all'Intifada in via Casal Bruciato 15 prenderà parte al dibattito sul tema sicurezza alimentare, seguirà un concerto del gruppo reggae Jamila. E quindi grazie per essere qui Roni, e andiamo subito a chiederti un po' qual è la situazione generale nel paese, la situazione politica del Guatemala, qual è la situazione politica del tuo paese ora? Bien, gracias por estar aquí con ustedes, por recibirme, y por supuesto muy felices de poder compartir con ustedes los últimos análisis de la situación política guatemalteca. Grazie per l'invito, sono molto felice di condividere con voi queste tematiche. Ora vi parlerà della, appunto, la situazione guatemalteca. Como es sabido, después de la firma de la paz del año 96 en Guatemala, de una u otra manera hemos creado como la expectativa de un futuro con muchos beneficios sociales, la cual realmente se nos ha frustrado por el tipo de gobiernos que hemos mantenido. E dopo il 1996, con la firma dei trattati di pace, si sono create tantissime aspettative, soprattutto per ottenere i benefici sociali per cui si era lottato. Ma è stato difficile con i governi che ci sono stati. Io considero che una delle situazioni più complicate è che in nessun momento noi logramo che questi accordi di pace passassero a essere giuridici. Praticamente sono unos accordi quasi in letra morta. Il problema più grande è che la speranza più grande era quella che questi accordi avessero un valore giuridico, e invece di essere semplicemente una carta morta. Lamentablemente, gracias a todo un numero de décadas de represión, de terror, lograron someter al pueblo guatemalteco en una de las situaciones más difíciles de zozobra, la cual se ha mantenido durante estos últimos años. Dopo tanti anni di terrore, il popolo guatemalteco è stato praticamente completamente sottomesso ed è rimasto appunto sotto questa condizione. Y por lo tanto, las campañas tanto de la Iglesia Evangélica como del ejército de Guatemala y también de la oligarquía guatemalteca ha sido de siempre intimidar a la población que los movimientos revolucionarios pues no son más que marxistas, que son comunistas y que eso es malo para el país, y de alguna manera diciéndole que si votan por la izquierda eso significa volver a un pasado. La campagna mediatica è stata portata avanti dalla Chiesa Evangelica, dall'esercito e dall'oligarchia, che ha fatto di tutto per intimidire la popolazione, accusando poi i guerriglieri di essere marxisti, comunisti, e assolutamente anche dicendo di non votare questi ex guerriglieri perché sarebbe stato un ritornare al passato. Como consecuencia, hoy día tenemos gobernando en nuestro país a un ex general, Otto Pérez Molina, que es uno de los creadores de las políticas represivas de los años 80 contra el pueblo guatemalteco. oggi abbiamo come il presidente del Guatemala Otto Pérez Molina, che è un ex generale che è stato uno dei creatori della politica poi del terrore. La verdad que es a veces inaceptable de que este sistema de gobierno, como el general Otto Pérez Molina, ni bien arribó al poder y automáticamente militarizó todas las instituciones del Estado, colocando a generales, coroneles y especialistas caiviles en los diferentes puestos administrativos. È inaccettabile che appena Otto Pérez Molina arrivò al potere ha militarizzato tutta l'istituzione, mettendo appunto nei posti statali ex caibiles militari. En todo este periodo de gobierno, a lo que menos se le ha dado importancia es a los acuerdos de paz. Totalmente al contrario, se han desarrollado políticas de militarización al país entero. Non c'è stata attenzione assolutamente a mettere in atto i principi che erano, appartenevano nel 96 appunto ai trattati di pace, ma l'obiettivo è stato solo quello di militarizzare il paese. A tutto questo tipo di politica di militarizzazione, noi lo consideramos que realmente es la continuación de las políticas contrainsurgentes. Realmente es el control del terreno, es el control de la población y es el sometimiento a la voluntad. Questa è una politica appunto che va, questa politica di militarizzazione è una politica che ha continuità con il passato e proprio per il controllo della terra e del controllo della popolazione. Y debemos de tomar en cuenta también que los acuerdos de paz fueron una de las grandes necesidades del imperio americano para poder desarrollar sus megaproyectos expresados en el neoliberalismo. Gli accordi di pace sono stati una necessità del Nord America, dell'impero americano, che appunto aveva l'interesse che tornasse la pace. Y por supuesto, estos gobiernos, como el general, son los que responden a esos intereses de las transnacionales y que les ha abierto las puertas y de alguna manera pues pisoteando la dignidad de los pueblos, especialmente mayas. E questo governo appunto sostiene tutte le politiche delle transnazionali che operano sul territorio e colpiscono principalmente la popolazione maya. En estos últimos periodos de gobiernos, Guatemala, los gobiernos guatemaltecos han privatizado todos los servicios sociales, incluyendo las comunicaciones, la misma educación, van en el camino de la privatización, los puertos, los caminos, todo. Lo Stato guatemalteco non ha fatto altro che privatizzare tutti i servizi sociali, come ad esempio le comunicazioni, le strade. Este general Otto Pérez había creado la falsa expectativa también en el pueblo bajo la consigna de mano dura, diciendo que iba a garantizar la seguridad, la gobernabilidad, aludiendo que el gobierno anterior había sido mano aguada y que no había logrado superar esos retos. La verdad que hoy la delincuencia común organizada ha aumentado en un mayor porcentaje y de su famosa mano dura es lo que menos tenemos en el país. La politica di Otto Pérez Molina è quella della mano dura proprio per garantire la sicurezza e quindi ha accusato il governo precedente che non ha fatto nulla al riguardo, però la delinquenza è assolutamente aumentata. En cuanto a derechos, yo considero que el general ha desarrollado una de las políticas más ridículas, como negando el derecho a la manifestación. Ahora se dice que se puede manifestar los días sábados y domingos y sin excluir, sin bloquear los caminos. O sea, esto podría ser como lo más estúpido que puede hacer un general. Per quanto riguarda invece i diritti, la politica più ridicola è stata quella di vietare le manifestazioni e di renderle possibili solo il sabato e la domenica, senza bloccare le strade. Quindi questo è assolutamente stupido e ridicolo. Yo pienso que a grandes zancadas esto podría ser un pequeño resumen de la situación real que estamos viviendo en el país con respecto a la situación política desarrollada en este gobierno. Bene, molte grazie. Tu hai parlato della necessità degli accordi di pace del 1996 per sviluppare mega progetti e a questo insomma ci riagganciamo, perché il Guatemala, come tanti altri paesi dell'America Latina, è oggetto di questi grandi impianti di sfruttamento delle risorse idriche necessarie alla produzione di elettricità, queste grandi centrali elettriche che spesso vedono protagoniste anche imprese italiane come l'Impregilo, come l'Enel, che ha sviluppato già in Guatemala una centrale idroelettrica di cui ci siamo occupati, ma ne sta costruendo altre in Cile, in Colombia. E tu appartieni a un'organizzazione che lotta contro questi vari progetti idriche che stanno venendo progettati nel nord del paese. Quali sono i progetti che ora si stanno sviluppando in nord del paese, dove tu stai con il Frente Pedenero contro le represa? Nosotros en la parte norte de Guatemala iniciamos la organización de las comunidades peteneras, especialmente sobre el río Pasión y el río Sumacinta. Ahí creamos una fuerte organización llamada Frente Petenero contra las Represas. Nel nord del Guatemala abbiamo iniziato ad organizzarci soprattutto per i problemi legati a due fiumi, che è quello Passione e l'Usumacinta, contro appunto questi progetti. Hay varios intereses de las transnacionales en desarrollar estos proyectos hidroeléctricos. Petén especialmente cuenta con uno de los ríos más largos de Centroamérica y es justamente el río Usumacinta. Ci sono vari interessi delle transnazionali, soprattutto nel Petén, per sviluppare questi progetti idroelettrici, proprio perché lì c'è uno dei fiumi più grandi, che è proprio il fiume Usumacinta. En base a los estudios realizados por algunas empresas, especialmente mexicanas, han llegado a la conclusión que solo el río Usumacinta es capaz de darle energía a toda Centroamérica. Y por lo tanto, en un compromiso con gobiernos, Guatemala, México, han tomado la iniciativa de crear cuatro diques sobre el río Usumacinta, especialmente en el lugar llamado Yaxchilán, hacia Piedras Negras. Degli studi messicani hanno concluso che solo il rio Usumacinta fosse in grado di produrre poi quell'energia sufficiente per tutto il Centro America, e quindi si è deciso di costruire quattro dighe tra Yaxchilán e Piedras Negras. Este proyecto amenaza no solo la flora y la fauna, también amenaza a muchas comunidades de las riberas de este río. En este río se encuentran ubicadas la mayor cantidad de cooperativas agrícolas que existen en Petén. Il progetto non minaccia solo flora e fauna, ma anche tutte le comunità che nascono poi sulle rive del fiume, che sono soprattutto cooperative. En base a los estudios realizados, estos cuatro diques tienen la capacidad, inundarían una tercera parte de Petén, que son las tierras que están produciendo ahora, especialmente estas cooperativas, desde la técnica agropecuaria hasta el laurel. Estamos hablando más de 140 kilómetros de largo. Queste quattro dighe inonderebbero un terzo delle terre che appartengono al Petén, soprattutto dalla comunità della tecnica fino all'Urel. Nosotros, ante la preocupación de la creación de estas represas, hemos realizado una consulta popular hace apenas el año pasado para conocer la voluntad del pueblo. Esta consulta, que fue muy publicada y se le invitó a las autoridades a participar y tuvimos observadores, hemos tenido más del 88% en contra de estas represas. Visto che erano molto preoccupati per questi progetti, c'è stata una consulta popolare nel 2013 a cui sono state invitate anche le istituzioni. Nosotros realmente hemos logrado hasta el día de hoy parar la construcción gracias a la unidad de todas las comunidades, de los municipios, especialmente Sayaché, de los municipios de La Libertad y también del municipio de Las Cruces. Grazie appunto a questa unità si sono uniti con gli altri comuni, che sono quelli di Sayaxché, di Las Cruces e di La Libertad. Aparte de esta iniciativa, también hay un oficial del ejército que están interesados en la construcción de otra represa que está en el municipio de Melchor de Menco. Melchor de Menco se ubica justo en la frontera con el país de Belice. Ci sono anche altri ufficiali che sono interessati a costruire questi progetti idroelettrici, specialmente nella zona di Melchor de Menco, al confine con il Belize. Hemos estado muy preocupados porque siempre este tipo de represas son ubicadas en los sectores donde está la concentración de campesinos de producción agrícola especialmente, y serían afectadas ahí proporcionalmente una cuarta parte del departamento. Sono molto preoccupati perché queste dighe colpiscono sempre i campesinos, i contadini e soprattutto le loro produzioni agricole, e in quella zona verrebbero colpiti più di un quarto. También hay una represa que ya la iniciaron a construir que está ubicada sobre el río San Juan en el municipio de Dolores, frontera con el municipio de Sayaché. En esta represa, de manera indigna, desplazaron a una población campesina que estaba en una tierra ocupada. Soprattutto c'è anche un'altra ripresa che costruita sul fiume San Juan, nel municipio di Dolores, e lì la cosa più grave appunto che è stato proprio il cacciare poi la popolazione che viveva lì. Esta comunidad se denomina San Miguel el Alto II. Esta comunidad fue desplazada y ahora están en una situación muy difícil, que no tienen tierra donde producir, y el Estado, que se había hecho cargo de ubicarlos y conseguirles su tierra, hasta el día de hoy no ha cumplido y estamos ya sobre el tercer año de su desplazamiento. Questa comunità si chiama San Miguel del Alto Dos e la cosa più grave è appunto che ora non hanno la terra, e anche se lo Stato si è preso l'impegno di ubicarli in un altro posto, fino ad oggi non ha fatto nulla. Realmente tutta Guatemala está amenazada por la construcción de este tipo de hidroeléctricas, y bueno, y tenemos un amigo, un vecino, que son los hondureños. Bueno, los hondureños son los que proponen la construcción, aparte también la empresa italiana. Tutto il Guatemala è minacciato da questi progetti idroelettrici e vengono coinvolti sia il paese vicino dell'Honduras e sia l'Italia. Io considero che... Dimmi. Así la empresa italiana que es Enel. Sí, estamos hablando de ella. Ma ¿de cuántas represas estamos hablando en que está Enel? ¿Una sola o...? No, por lo menos ahora estamos hablando de dos especialmente confirmadas, pero suponemos que de una u otra manera debe de haber intereses en las otras represas, pero eso no te lo puedo confirmar. Quindi adesso parliamo solamente di due riprese, però sicuramente sono interessati a costruirne altre, però non si può confermare. E quali sono le due riprese in cui sta? Stiamo parlando della parte dell'Occidente. Stiamo parlando della parte del sud, ovest. Mm-hmm. Bueno. Y vamos con una canción y después volvemos hablando. Prendiamoci una pausa musicale e poi ritorniamo in diretta su Radio Onda Rossa con Latinoamericana, con Ronnie, il compagno guatemalteco ospite oggi qui da noi, che ci parla del Guatemala e soprattutto della lotta contro le dighe, che come abbiamo visto ci riguarda da vicino, visto che è coinvolta, come spesso ci accade quando si parla di dighe in America Latina, anche l'Enel. Yeah. A chi esplode. Yeah. Il poplasio al ritorna. Citroni che la storna. Si suena, bro. Rap crudo. Yo, yo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me

lotta contro, si lotta proprio contro la criminalizzazione di questo movimento, visto che appunto il governo al contrario aiuta le multinazionali, l'obiettivo verso è quello di criminalizzarci. Tenemos los casos específicos como Xalala, que es uno de los lugares donde se están construyendo estas represas, donde de manera indiscriminada asesinaron a dos de nuestros compañeros y han puesto preso a más de seis. Un caso es Xalala, donde lì sono stati uccisi appunto due compagni. La manera de ejecutar este tipo de acciones es de manera clandestina, donde el Estado no se hace cargo de estos asesinatos, sino que lo hacen a través de grupos tipo paramilitar. Queste azioni avvengono in maniera clandestina, cioè il governo fa in modo di non essere assolutamente coinvolto e avvengono principalmente attraverso gruppi paramilitari. Nosotros en respuesta estamos tratando de articular y de alguna manera ya está articulado un movimiento nacional en contra de las represas en comunicación con los hermanos mexicanos y también con los hermanos de Centroamérica. Appunto, noi ci stiamo unendo anche con altre organizzazioni, per esempio con altri compagni del Centroamérica o del Messico. Principalmente son las iniciativas que ahora estamos desarrollando de lucha en defensa del territorio, porque esto es parte del esfuerzo conjunto que realizamos desde Petén con las diferentes organizaciones que luchan contra las represas. Questa è una lotta in difesa del territorio da organizzazioni che coinvolge poi tutto il Guatemala, a partire appunto dalle organizzazioni del Petén. En este sentido también hemos estado coordinando actividades con los demás hermanos del occidente que están siendo afectados contra la minería a campo abierto. Si coordinano per questo anche altre azioni con i compagni del che stanno nella parte occidentale del Guatemala, soprattutto perché loro vengono minacciati appunto dalle mine. Ahora estamos tratando de montar algunas radios comunitarias para poder difundir este tipo de lucha y de defensa territorial. Quindi appunto si stanno organizzando per realizzare questa nel paese tutta questa organizzazione che in particolare anche con questi del sud che è contro le miniere. Aparte de que también hemos participado en varias manifestaciones, tomas de tramos carreteros, aeropuertos, y aparte de también de tener boletines, pequeños comunicados que hacemos circular, porque realmente los medios de comunicación no están al alcance de nuestra mano, están al servicio del capitalismo. Si fanno varie manifestazioni, si utilizzano varie modalità di comunicazione alternativa, per esempio dei giornali, proprio perché i mass media non sono interessati a queste dinamiche. Bene, eccoci. Allora, mi dicevi anche che oltre alle centrali idroelettriche, gli altri interessi economici a cui è legato lo sfruttamento delle terre e delle popolazioni guatemalteche sono la palma africana, le coltivazioni, le piantagioni di teca, un legname utilizzato per la costruzione di barche, il narcotraffico e il petrolio. Me stava dicendo che otros intereses economico in Guatemala stanno a cerca della palma africana, della teca, del narcotraffico e del petrolio. Come, in che maniera affectan la popolazione estas estos sectores económicos? Bueno, realmente yo creo que son uno de los impactos más fuertes que se le hace a la humanidad, a la dignidad de las personas, por los modelos de producción totalmente ajenos a una società más justa. Questi sono gli impatti più forti che si fanno all'umanità, perché proprio sono dei progetti che sono lontanissimi. La palma africana se ha apoderado prácticamente de toda la franja transversal del norte y también del municipio de Sayaché. Esto, para empezar, es un monocultivo. Y aparte de eso, que le beneficia a una sola empresa o a un par de consorcios, y esto significa un atentado en contra de la seguridad alimentaria. La palma africana è soprattutto sviluppata nella parte appunto del Peten, che arriva fino a Sayaché, e ovviamente essendo una sola coltivazione minaccia la sicurezza alimentare del paese. Aparte de eso, este tipo de proyectos que supuestamente son diseñados para el biodiesel le limitan a la sociedad un desarrollo más ecuánime, ya que se deja de producir la diversidad agrícola que anteriormente ahí se desarrollaba. È un progetto che si dice che appunto serva per produrre biodiesel, ma è un progetto che va contro uno sviluppo equo e soprattutto non permette la diversificazione. E praticamente también le deja al campesino solamente su mano de obra no calificada, es el único capital que le queda, ya que no cuenta con el sustento de la tierra, que es la base fundamental de la producción y la diversificación. E lascia al contadino come l'unico potere appunto la sua mano d'opera, che comunque viene dichiarata non qualificata. Esta planta también es exótica para Guatemala, ya que no es nativa, y para poder plantar esta palma africana han tenido que deforestar el antiguo bosque, que realmente es muy diversificado. En una sola hectárea puedes encontrar hasta más de 300 especies distintas de árboles. È una pianta esotica e quindi non è una pianta nativa, e questo ha comportato una forte deforestazione, mentre si pensa che in una foresta in un solo ettaro abbiamo più di 300 specie. La misma historia en el municipio de La Libertad, donde se está desarrollando la plantación de la planta teca. Es un árbol que también es exótico, no pertenece al continente americano. Lo han llevado porque es una especie de crecimiento inmediato y se usa especialmente para los astilleros donde se construyen los barcos, para el sistema de decoración y todo eso, por la calidad de madera para aguantar la sal del mar. È per esempio il progetto della teca, che è un legno che non appartiene al continente americano ma è stato importato e quindi esotico, semplicemente perché è una specie che cresce velocemente e viene utilizzata per decorare all'interno delle imbarcazioni. Questo è un problema che si sta vivendo principalmente nel municipio La Libertad. Il tema del narcotraffico è una delle situazioni ben complicate, que están muy interrelacionadas con los otros problemas anteriormente mencionados. El problema del narcotráfico es un problema muy complicado que es correlato a todos los otros problemas. A un inicio nosotros en Petén éramos como el punto de escala, era el lugar donde aterrizaban las avionetas, se recargaban y continuaban el vuelo. Éramos como el paso estratégico. Pero ahora esa situación ha ido cambiando constantemente. Il Petén è una regione che si è caratterizzata appunto per essere di passo strategico, e quindi gli aerei scendevano, caricavano e ripartivano. Ahora el narcotráfico tiene grandes propiedades de terrenos. Aparte de eso también está el narcoganado, la manera de cómo lavar el dinero, y esto ha ido creando una situación en la organización social, inclusive de contaminación a la salud. Ora il narcotraffico ha grandi proprietà di terreno e soprattutto abbiamo un altro fenomeno che è il narcoganado, che sarebbe l'allevamento appunto degli animali, che viene utilizzato per il riciclaggio dei soldi. Esto también ha creado una ingobernabilidad e inseguridad en la zona, porque por la lucha del espacio de los capos han hecho guerras donde pagan personas que de verdad no tienen nada que ver por el control del territorio y del mercado. e per il controllo del territorio e del mercato, appunto, questa situazione ha creato totalmente una ingovernabilità della zona. Otra situación crítica, igual que la palma africana, como también la teca, el narcotráfico ha desplazado a los campesinos de sus tierras. Y estos desplazamientos no necesariamente son voluntarios. El poder, el dinero y las armas han obligado a los campesinos a que tengan que vender sus tierras y desplazarse. Porque se lo dejan como única opción, vender o morir. L'unica opportunità è vendere o morire queste terre, e quindi uno dei problemi più grandi è che appunto queste comunità vengono cacciate in maniera coatta dalle proprie terre con quest'ultimatum. E una delle grandi amenazas últimas che dà questo factor del narcotráfico è che ora i narcotrafficanti non tutta la coca va a los Estados Unidos, sino che ora también se encargan de distribuir en pequeñas proporciones dentro de los pueblos pequeños de la región. Y esto es una situación muy crítica para la juventud. Un altro elemento di minaccia, appunto, che viene distribuita la cocaina all'interno delle comunità, lo si viene fatto proprio per farla vendere, e questo è un problema soprattutto per i giovani. Y en términos generales, la implementación de estos proyectos, o si se le puede llamar proyectos, trae como resultado un desequilibrio ecológico, porque la ganadería, la palma, la teca, han deforestado grandes cantidades territoriales que antes eran como uno de los pulmones más fuertes de Centroamérica, hoy están sumamente amenazados, devastados, prácticamente convertido en desiertos o monocultivos. E ovviamente questi tipi di coltivazioni, dalla teca alla palma, hanno colpito poi il territorio del Centro America, che era pieno invece di foreste, appunto minacciando proprio l'equilibrio ecologico. Penso che sarebbe il commentario che potrei farti con rispetto a questo tema. Señor, ¿se siente satisfecho? Claro, si en Cuba está hecho. Tiene mujer, carro, techo y su idioma. Questo è sempre latinoamericano. E volevamo fare alcune domande al compagno rispetto a quello là, che non, alla trasformazione che non c'è stata in Guatemala. Al contrario dell'altra situazione del Centro America. Ma praticamente sembra una situazione essenzialmente bloccata agli anni Ottanta, con in sottrazione la non presenza della lotta armata della guerriglia, e con un peso specifico delle organizzazioni di sinistra e le organizzazioni popolari, che hanno un peso specifico molto minore. Allora, per fare un breve excursus storico, perché sennò non riusciamo a capire per gli ascoltatori, almeno per i più giovani, perché i più vecchi qualche cosa si ricorderanno delle trasmissioni fatte diversi anni fa sul Guatemala specifico. E in Guatemala, a seguito della rivoluzione sandinista, praticamente presero fortemente piede le organizzazioni guerrigliere in Salvador, ma in precedenza la più antica guerriglia, diciamo, dell'America Latina in generale, credo che sia stata proprio in Guatemala, e risale, se non sbaglio, al 1960, quando c'è stato un colpo di Stato foraggiato dalla United Fruit Company contro il governo di Jacobo Arbenz, a cui l'ultimo periodo partecipa pure Ernesto Che Guevara, prima di andare a imbarcarsi con il Gram. Un fenomeno. Negli anni Ottanta guerriglia era presente in Salvador, in Guatemala, e anche in Honduras. Poi in Honduras completamente distrutta, con stragi incredibili. In Guatemala c'era una situazione in cui la guerriglia era presente in, se non sbaglio, in 18 dei 32 dipartimenti in cui è divisa il Guatemala, soprattutto nella parte nord, nella parte a forte presenza indigena, e quattro organizzazioni, le GP, le FAR, l'ORPA e il Partito Rivoluzionario dei Lavoratori, praticamente tengono sotto pressione il Guatemala in maniera molto, molto pressante, tant'è che la geografia della presenza della presenza della lotta armata in Guatemala era a pelle di leopardo, da nord a ovest e a sud erano presenti le organizzazioni guerrigliere. A seguito di un, appunto, stiamo negli anni '80, a seguito di una cambiamento nella politica statunitense, che vedeva un suo ruolo maggiormente così proteso verso altre regioni del globo, sottrasse la forza alla guerra antiguerriglia in Guatemala. Fino a quel momento si calcola che il Dipartimento di Stato americano, per foraggiare l'esercito guatemalteco, spendeva qualcosa come 5 milioni di dollari al giorno. Dove ha cambiato strategia per i nuovi impegni sul territorio, sul globo, a livello globale, sottrae alcuni suoi reparti e invita il governo di fronte a un'offensiva della guerriglia, a aumentare i propri effettivi da 40.000 a 90.000 unità. Per tutto quanto la parte logistica e di intelligenza, fa intervenire dietro i suoi auspici il servizio segreto e alcuni reparti d'élite dell'esercito israeliano. In quella fase, non a caso, nelle zone indigene viene applicato il fenomeno della i poli di sviluppo, le PAC, le pattuglie d'autodifesa, eccetera, eccetera, da contrapporre anche alle nascenti organizzazioni di base, nella fattispecie il CUC, i Comitati di Unità Campesina, i GAM, i gruppi d'appoggio mutuo, le organizzazioni studentesche, insomma una bella alleanza di classe che non così era il risultato di una vecchia alleanza di classe tra contadini e operai ladinos con i settori indigeni. Non a caso due delle maggiori delle organizzazioni guerrigliere, l'ORPA e le FAR, sono quasi a stragrande maggioranza indigeni. Avviene tutto questo. Avviene che prima a Oslo nel 1990, poi a San Lorenzo di El Escorial, a Madrid, a Quito, si arriva alla definizione di un piano di pace, un piano di pace con l'allora presidente Vinicio Cerezo, credo, se non mi sbaglio. con Vinicio Serreso, e si arriva subito dopo i trattati di pace tra Salvador e il governo Arena, in Salvador, successivamente anche in Guatemala. Grossa aspettativa si aspettavano da questi accordi di pace, anche perché gli accordi di pace prevedevano tutta una serie di punti, che era la democratizzazione dell'esercito, la democratizzazione del Parlamento, il recupero della terra strappata alle popolazioni native. Insomma, c'era tutta quanto una serie di punti che Vinicio Serreso accettò obtorto collo, accettò su quel terreno. Non credo che poi questi, tutti quanti i punti che richiedevano sia l'organizzazione guerrigliera che le organizzazioni popolari siano state rispettate. Il compagno qui presente è stato fino al 2003, credo, portavoce dei smobilizzati della guerriglia. Quindi ci può dire che cos'è che non ha funzionato? Es una pregunta bastante compleja que podríamos hablar unas 5 o más horas o varios días, pero intentaré hacer un resumen. È una domanda molto complessa, potrei parlare per più di 5 ore e proverò a fare un riassunto. Yo considero que los revolucionarios guatemaltecos hemos tenido que pagar con creces gravísimos errores en el momento de la firma de la paz y de la famosa desmovilización. I rivoluzionari guatemaltechi hanno pagato a caro prezzo appunto ciò che hanno vissuto nel momento poi della desmobilitazione. Yo considero que uno de los errores más grandes es habernos incorporado en unas condiciones desfavorables y como se dice, en el tablero del mismo enemigo, ponernos a jugar una partida que no era la indicada. Y una de ellas, yo creo que es no haber hecho el uso adecuado del partido URNG. L'errore più grande è stata l'incorporazione poi con alcune forze all'interno del Guatemala. Per esempio anche l'incorporazione con l'URNG. Yo creo que otro de los elementos fundamentales es de que los acuerdos de paz nosotros no logramos que fueran reconocidos jurídicamente y nos lanzamos muy precipitadamente a una consulta popular que indiscutiblemente la perdimos y que tenía que ver realmente con la legalización de los acuerdos de paz. Gli accordi di pace, la cosa che si voleva ottenere è appunto che gli accordi di pace avessero un valore giuridico che non avevano, e quindi è stata fatta una consultazione popolare che poi è stata persa. Io in qualità personale mi permetto di dire che también tengo que reconocer que el enemigo fue muy astuto y fue capaz no solo de insertar a sus elementos dentro de los movimientos sociales, sino que también fue capaz del descabezamiento de los mismos, y como consecuencia estos movimientos sociales se quedaron sin cabeza. Sicuramente come opinione personale sicuramente abbiamo avuto un nemico molto astuto che è stato capace di infiltrarsi nei movimenti sociali, e come conseguenza sono rimasti questi movimenti sociali senza testa alla fine. Justo lo que tú dices. Somos un movimiento guerrillero con más de 36 años de lucha, uno de los más viejos, por lo menos, de Centroamérica. Sicuramente, come appunto si stava prima dicendo, sono uno dei movimenti guerriglieri più antichi, perché appunto 36 anni di guerra civile, quindi sicuramente uno dei più vecchi del Centroamérica. supuestamente la respuesta que teníamos que darle a la sociedad guatemalteca tuvo que haber sido con un ejemplo fuerte de unidad, y la verdad es que no sé por qué, siempre la izquierda siempre está peleada, siempre está dividida. L'esempio che si doveva dare alla popolazione guatemalteca era appunto un esempio di unità, ma non so perché alla fine siamo sempre divisi e frammentati. Y yo creo que Guatemala es una de las cosas de mayor peso, es la falta de unidad entre los revolucionarios guatemaltecos. Y en este caso estoy hablando de la URNG, estoy hablando de ANN, estoy hablando de WINAC, estoy hablando de todos estos partidos que no han logrado concertar un lineamiento único. Sicuramente il problema più grande del Guatemala è proprio quella di non essere riusciti a creare un unico movimento tra appunto i diversi movimenti che poi erano ex guerriglieri e hanno scelto la via politica, e sono l'URNG, la NN e il WINAC. Otra cosa para mí de particular importancia es de que la ubicación geográfica de Guatemala es un punto estratégico para los intereses de los Estados Unidos. Y lo que tú decías es cierto, las inversiones millonarias, diarias, que hacían para no permitir que se desarrollara un movimiento revolucionario fuerte en Guatemala. Para los Estados Unidos es un punto de partida o un stop para el crecimiento de ese movimiento revolucionario centroamericano, expresado con los hermanos nicaragüenses y los hermanos salvadoreños. Sicuramente il contributo economico arrivato dagli Stati Uniti è stato molto forte per impedire proprio che si sviluppassero poi i movimenti rivoluzionari, anche appunto i movimenti poi dei fratelli del Nicaragua e del Salvador. Otro elemento importante es de que en Guatemala nosotros tenemos la oligarquía más tradicional de Centroamérica, la más criminal, y esta oligarquía ha invertido todos sus recursos, especialmente los medios de comunicación y también los recursos económicos para poder mitigar cualquiera de estos movimientos. Sicuramente una caratteristica è l'oligarchia del paese, che è una di quelle più tradizionali e più criminali, che ha investito tutte le proprie risorse, per esempio ha in mano praticamente tutti i mezzi di comunicazione. Nosotros como revolucionarios guatemaltecos nos alegra mucho los resultados de ahora, de este año, de los compañeros salvadoreños, aunque la diferencia en votos sea poco, pero es significativo que la guerrilla salvadoreña arribe al poder. Yo creo que es una muy buena oportunidad de poder demostrar lo que hacemos los revolucionarios. Sicuramente come rivoluzionario siamo molto felici che ci sono i compagni del Salvador che sono arrivati al potere, anche se per uno scarto di pochi voti. Otro elemento para nosotros creo que va a ser parte de ese levantamiento de los guatemaltecos son los resultados también tanto en Honduras como en Costa Rica. Costa Rica nos da la sorpresa porque suponíamos que ahí donde el movimiento revolucionario era más bajo y mira, ahora en estas elecciones nos deja la satisfacción de un crecimiento. Yo considero que los revolucionarios guatemaltecos tomaremos muy en cuenta estos elementos para implementar con mayor fuerza el movimiento. Sicuramente i successi dei rivoluzionari in Honduras e in Costa Rica rappresentano appunto un esempio, e per noi rivoluzionari guatemaltechi sicuramente è fondamentale prendere in considerazione. Un'ultima domanda: che fine hanno fatto Gaspar Diom e il comandante Gaspar Diom? Bueno, nosotros ahora, tanto el compañero comandante Gaspar Ilón, lamentablemente murió por una enfermedad, fue uno de los miembros de la comandancia general, también, quiera o no, fue uno de los que marcó uno de los momentos cruciales en los acuerdos de paz de manera negativa. Con el secuestro de la señora de Novela. Yo creo que son una de las situaciones más difíciles que vivimos los revolucionarios, y que aprovechó también el sistema para obligarnos a hacer tratados que no necesariamente eran los que deseábamos. Yo creo que esto le hizo mucho daño al compañero comandante, este tipo de actividades. Bene, noi ti ringraziamo per l'intervista e ti diamo un'altra volta gli appuntamenti dei prossimi giorni che ti vedranno partecipare. Ricordiamo che abbiamo intervistato Roni, un ex guerrigliero del Guatemala, attualmente membro del Frente Petenero contro las represas, quindi contro le dighe che, come abbiamo visto, vedono anche coinvolta l'italiana Enel. E proprio su dighe e biocarburanti ci sarà domani il dibattito a cui Roni parteciperà allo Shoot for Change in via del Mandrione 105, domani martedì 18 alle ore 19, e poi venerdì 21 all'Intifada via Casalbruciato 15 alle ore 21 il dibattito sul tema sicurezza alimentare, e poi un concerto reggae con Jamila. Noi ti ringraziamo molto per essere stato qui, speriamo di risentirci in qualche modo, o di nuovo qua o chiamandoti in Guatemala. E niente, grazie per essere stato qui, e un grazie a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per averci seguito anche quest'oggi. Un saluto particolare a chi lo ha fatto privato della propria libertà personale. Sembra l'offensiva, è difesa della fida, che anni da guerrida.